quel nome? Quel nome? Ma possibile, ma chiede per amore, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! Principessa, scusa. Thank you. Go ahead! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.